Doveva uscire la verità, invece, qui tra le nuvole del blockhouse le idee si annebbiano mentre volano i fischi e garzelli. Reo per i tifosi abruzzesi di aver strappato a Di Luca il secondo posto e 4 secondi di abbuono. Solo una cosa è chiara: che il giro non è finito, perché ora il distacco tra Menciov e Di Luca è di appena 26 secondi, un tesoretto davvero scarsino anche per un osso duro come Russo, che ieri per la prima volta traballa. Un lieve cedimento, vero, pochi secondi, ma qui contiamo anche gli spiccioli. Ora ci sono altri due appuntamenti: la tappa del Vesuvio di domani e la crono finale dei Fori Imperiali. Sulla carta il Russo dovrebbe farcela, ma qui ci fermiamo perché la storia, che a volte si ripete, ricorda che un tour è stato perso per 8 secondi e un giro per 12. Bella impresa quella di Pellizzotti, che gli permette di vincere la tappa e risalire sul podio. Quanto a Garzelli, finché i tifosi lo fischiano si può capire, qui Di Luca è l'idolo, ma dagli del traditore della patria perché gli ha soffiato il secondo posto è ridicolo. In Francia dicono à la guerre come la guerre, in Italia arrangiati. Dario Ceccarelli, GR24, Il Sole 24 Ore.